Sonfonio. Ma sta vedo. Oh, cazzo, fischiando stava. Aspetta. Perché stava fischiando? E dopo 2 giorni hanno rubato l'antenna alla macchina. giù, giù, giù, giù. Voi sarete... Stop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ascolta, se passi in FM, così mi dici come mi accompagni. L'FM è sempre bello perché sembra una telefonata. E con chi vuoi senti come il telefono? Sai quanto mi aumentava con chi da me ricezione, così 80. Se uno arrivava a Santiago se mi arrivava a 9.30, arrivava in FM. Sembrava di essere attaccata a me. Ah, così è. Cambiava anche la, diciamo, lo Smith. Segnava di più in FM, così. E infatti, segnava di più in FM, in ricezione, ma usciva anche più in trasmissione di C80. Era bello per quello. L'unico problema è il difetto suo, è che se lo piatti dentro un appartamento è un casino. In città, capito? Perché prende tanti di quei scarichi elettrici, che non hai idea. Non c'ha filtri, capito? Un apparecchio semplice. Va bene, da. E ma da laterale proviamo, breve. Voilà. Unisco, Santiago Banana. Santiago Banana, canale 10. Se ti piace la banana, canale 10. Vedi un po', sono spostato o sono giusto? No, sei giusto. E io come sono giusto, ho spostato di testa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora, di apparato sei giusto, di testa sei spostato. Va bene, il tecnico lo sai che hai spostato di testa, non ho mai visto un tecnico sano, la verità si dica. Hola, ecco qua devi, in banda laterale devi parlare vicino al mic per avere la potenza massima. Ok, da, va bene, da, ripassa pure in AM, io adesso cerco di smontare tutto e vado a mangiare, da, poi non so se rientrerò dopo, o da caso dalla macchina. Ok, va bene, già sono qua all'ascolto al limite io, va bene allora. Adesso parlava di vecchi tempi, quando abitavo in Venezia, che mi alzavo la mattina, parlavo con gli spagnoli, poi la sera tutto il giorno parlavo tranquillamente con la Spagna, come se fossi parlando di città, diciamo un punto molto aperto, capito? E senza propagazione addirittura ci parlavo tutti i giorni. Lo senti quando vuoi essere americano? Ma anche io lo stesso, sì, capita dei giorni, io per male sono un punto abbastanza alto, la verità, è abbastanza anche aperto, però gli spagnoli li sento molto più in banda, lì è una cosa impressionante, qualsiasi canale fai ascolto, quanto ti pare ti piace, e poi diciamo tranquillamente collegarti, dai, per modo di dire, tranquillamente. Poi in AM invece troppo correre, è sempre sporca la camicia. Oggi c'era un sacco di QRL con questa propagazione che c'era, la verità, da stamattina, ho attaccato il Texas, sentivo la modulazione con fuscio sotto, sentivo. Ascolta, beh, per quella tua sorella non glielo piatti. Mia sorella deve cambiare casa, capito, sta cercando casa, come cambia casa, ha detto che se lo piazza in casa sua. C'è tutto qua a me, gli ho regalato la Grand Prix, gli ho dato il baracchino, che ce lo sto usando io adesso, poi gli ho regalato l'alimentatore, si appena cambia casa, che trova una casa più grande, capito, lì dove, siccome sono in tre bambini piccoli, non ci sta più. Tre a Osi, sì, oppure si trasferisce a Sassari? La verità non lo so, dove trova? Dove trova, si trasferisce adesso. Nelle malone. Intende esattamente? Sì, già li sento, ma li sento tutti i giorni questi. Il canale a quest'ora li sento tutti i giorni. Sul 9. Dovrebbe essere per loro qualche canale monitor, sicuramente, no? Sì, senz'altro sì. Diciamo poca propagazione, o non cambia, se non cambia questo tempo mi sa che quest'anno pochi collegamenti. Già c'è la propagazione, anche perché ci sono le macchie solari molto, c'è l'attività solare lucidante quest'anno, se tu guardi le foto del sole, le macchie solari, vabbè, ci sono anche problemi d'altronde per i venti solari adesso. Capito? C'è una riduzione allucinante del sole, quindi ci disturba questo, capito? Ah, ecco, per quello quest'annata è abbastanza disturbata il 27. I venti solari sono una cosa allucinante, ti bloccano tutto. Infatti ci sono i satelliti che stanno lavorando per metà, se non tanto. Capito? Però noi abbiamo il coso che ci protegge, se no eravamo già morti a quest'ora. Tu se vai a cosa, guardi le aurore boreali che capitano, capito? Ecco, Gemini, non la verità di questa ricerca non l'ho mai fatto, perché non sono anche un bel po' senza andare lì a prendere un giornale e leggere la verità, e non sapevo che quest'anno c'era un'attività così forte. C'è un bel po' di attività quest'anno, il sole, ci state delle eruzioni di corso, e quindi a parte le macchie solari che sono molto ampie quest'anno, quindi. Beh, aspettiamo che si calca un po' la situazione, no, bene o male sì, qualche collegamento, niente di più. Io mi ricordo bene, la scorsa estate era impressionante, era molto bella come propagazione, e ogni giorno per almeno un mese e mezzo ti facevi dei bei collegamenti dalle 5 sino alle 8, cioè avevi quest'arco di tempo, giustamente, Alta Italia, e poi tutto quello che trovavi è la verità. Però per il momento è così, vabbè, prendiamola come viene, dai. Comunque qualche cosa già si riesce a collegare, un po' potenza ci vuole, tutto lì. E qualcosa sotto ci vuole sempre, ci vuole. Ma già si busca, ci sono i lineari, c'è una stazione l'altro giorno, 200 euro, un Buccio, un 31 con un presidente Lincoln. Lo stavano prendendo. Su internet? Su internet, sì. Allora, su eBay, non mi ricordo adesso, su eBay o subito punto it, non mi ricordo. L'ho visto un paio di volte. Spagnoli, sì, no, ma io sono un po' adesso senza dare un'occhiata, perché sì, quando è stato qui, almeno 4 mesi fa, cerca, poi alla fine sono sempre i soliti prodotti, qualcosa di nuovo, non, per il momento non ho visto niente, ecco. A me è venuto un po' in testa di scrivere l'altro giorno, l'altra volta, a parlare di cinesi HF, pensavo di trovare qualcosa di buono, ce n'è uno bello. Costa $400, dice che Marco conduce uno e se l'ha comprato per 300 euro in traffica. Da 0 a 29,999, lì la mitico, capita tutto. Dice che è molto bello. Per 200 euro si può anche comprare un apparecchio HF, va bene. Cinese naturalmente. Alla fine sì, confrontando altri prezzi dei prodotti che ci sono adesso, giustamente di grandi marche, 300 euro a vendoli si potrebbero spendere tranquillamente, sperando che sia una apparecchiatura abbastanza affidabile. Sì, c'è scritto che è molto molto affidabile come apparecchio, che c'ha un microfono anche amplificato addirittura, c'ha un sacco di roba, c'ha... Poi ci sono questi portatili anche, l'altro giorno ho parlato con Tonino, anzi ieri ne ho parlato con Tonino alla GBC. Gli ho detto, ma quando, ho detto, perché non ti fai levare con gli apparecchi cinesi? Ho detto, quei dual band, gli ho detto. Sono belli, ho detto, costano 44 euro, 44-45 euro, ho detto, col c'hanno il caricatore e tutto, gli ho detto. Se mi vendi, ho detto, 50-60 euro, ho detto, ti hai fatto uno scopo, gli ho detto, non ci hai rimesso nulla. Sono belli, veramente belli, ho detto, questi VU cinesi. Se lo fai rivale, ho detto, te li vendi, non ti costa niente, ho detto, se pigli un paio, qualcuno vedrà già se li comprerà. Anche se ci vuole il patentino per poterlo usare, ma se si possono anche modificare, c'è il programma, al limite di fare modifiche, devo fare diventare PMR del PD, perché se no vuoi usare quelle frequenze memorizzate che ci sono, capito? Ascolta, lui cosa ha detto? Che ci pensava oppure ha fatto qualche risposta negativa? Che sicuramente non c'è mercato, dunque non voleva rischiare. Ciao. Ho detto già ci pensava, mi ha detto io ieri. Penso, ho detto un paio, gli ho detto. La gente quelli per fuori subito, avete di strada, ho detto. Ormai è ricordato una cosa, gli ho detto, Tonino. Tutto quello che tu vendi fatto in Cina, anche se è marcato per dire Kenwood, quello che è Intec, è tutto fatto in Cina, quindi ho detto, ormai non sono ancora aperto qualche negozio di elettronica di cinesi, se no stai tranquillo che ci sta mai cattato del fallito. Quello già è vero, perché secondo me stranamente le loro marche non fanno niente, diciamo, lavorano per altri, ecco, però se veramente si mettono per i fatti loro, hanno imparato un bel po' di tecnologia, e quello già è vero. Sì, hai ragione, sicuramente sarà anche un buon apparato, perché no, hai veramente ragione, questo non ci avevo pensato. Fanno tutto, sono gli americani che li danno a fare tutto, li danno schemi, li danno tutto, i componenti ce li mettono loro, perché... Loro gli danno direttamente il prodotto finito per dire, loro gli danno di 10 euro e li pagheranno. E quando viene qui per dire ne costa 100, 200, e il problema è quello. Se invece avessero venduto i cinesi, avessi visto che un iPhone 4 fosse pagato un tot, avessi pagato la metà. Quello già è vero, ma sì, qualsiasi cosa che sia anche adesso, vabbè, lasciando perdere questi vecchi apparati che abbiamo noi, sono costruite da chi li ha inventati, chi ci ha lavorato sopra, ma la maggior parte di qualsiasi componente che abbiamo a casa ormai è tutto in Cina, ma in Cina c'è poco da fare, ma qualsiasi cosa, anche dalla carta igienica se ti fidi. La carta igienica no, ma in che visemo me? Hai visto come sono, ormai i cinesi stanno aprendo negozi a tutto andare, la gente sta andando via a comprare, capito? Non c'è più il maniaco che andava a comprarsi i Levis, adesso compra anche Vicky Pilbertola, e va che ce l'è. Non racconto, adesso l'Italia ha aperto un nuovo LD, un 3 mesi fa, e di fronte ha aperto un negozio di cinesi, il primo negozio di cinesi a Ossi, Linda si chiama questo negozio, di articoli per la casa, e poi in via Tissi, nella strada del Blue Star, devono aprirne un altro, sempre questi, lo stesso, che la ferma Literai, e li mettono il vestiario. E allora siete apposta Ossi, un caso da cinese, l'importante è che non vi faccia qualche negozio di parrucchiera, se no già fa gruppo in ufficio. Davvero, io ho visto uno, se non sbaglio, a Sassari, no, non era a Sassari, no, a Milano ne avevo visto, ma dove mi l'abbiamo il primo negozio di parrucchiere cinese? A Sassari mi sa che non ce n'è. C'è, è a Pedanieta, a quanto so io. Comunque hanno fatto anche un coso per massaggiare, per massaggi se ci vuoi andare. È aperto da poco, c'è anche il numero del telefono. Tu vai su internet, scrivi c'è una ragazza cinese e appare quel sito. Ho detto che piace la carta a te. Non c'è fotografie, no? Io ho scritto così per gusto col computer, no? E mi è apparso il raggio di questo negozio di massaggi, non negozio. C'è scritto che era aperto questo fare qua per fare massaggi. C'è però il numero del telefono, puzzinosi, non ce l'ho messo la via, eh. Comunque, allora tu, scusami se ho capito bene, allora, ha aperto un negozio di massaggi a Sassari, dunque io telefono tranquillamente, diciamo mi massaggia le spalle e poi se voglio mi massaggia anche... E anche l'uccello, ma c'è anche scritto. Allora ci andiamo, Antone. Perché un certo massaggio, e mi tu prova a scrivere nel telefono che c'è tu. E vedi che ti appare il numero del telefono. Telefoni anche quattro mani fanno, quindi non ti mettere i problemi. E mi sa che ci organizziamo. Centro massaggi di giustamente Sassari. Si può fare. Cioè prendiamo, diciamo, un dolore di relax, Antone. Penso gli diciamo la tensione. Vabbè, c'è un grido, se ti si mette a cavallino sopra, a tu che massaggio cesce. E dalla tua forte. È il Santone che ci organizziamo. Di qualche giorno, di domenica lo facciamo, capito? Telefoniamo e prendiamo l'appuntamento e andiamo per un pochettino, diciamo cosa fanno, cosa non fanno. Secondo quando vogliono. Andiamo bene, speriamo che ci diano almeno diciamo le stanze separate. Io mi faccio fare il massaggio a quattro mani, al limite se c'è qualche maschio dietro col pisello. Non ti preoccupare, non ti preoccupare che già ce l'hanno piccolo loro. Allora, tu. Ci mancava solo quello a Sassari, ma io pensavo che non ce l'era, invece c'è, cazzo, vuol dire se ce l'ha aperto anche da poco, un 100 massaggi. Attenzione a vedere se ben informati, la verità non mi sarebbe mai venuta in mente. Comunque, ognuno ha le sue perversioni, dai, già va bene lo stesso. Scusate, sono sul canale porno. No, si chiama pannografico questo. Buonasera a tutti. Buonasera anche a lei, dottore. Ah, non mi trovavo, ho detto, sul canale 10 non c'è nessuno. Adesso stavo già per andare a fare ascolto con altre frequenze, invece adesso ho sentito il bip tuo, mi splatter. Il mio. Poco bene entrare su un bilancio. Ho subito detto, ci avessi un giro, e l'ho cercato. Stavo, anche perché non sono neanche pompando, nel suo liscio. Adesso ho attaccato, 1, 2, 3, 4. Un puccio. Allora, sono venuto qua su questo canale perché c'erano gli spagnoli sotto. C'è tutti i giorni sul 9, due spagnoli ci sono di cosa, di visore dei canali che parlano. E effettivamente ci sono spagnoli, francesi, un po' di tutto, sto facendo un po' d'ascolto. Il francese ce n'era uno poco fa, nel 43-44 eravamo, 40 anni prima. C'era la Francia che arriva forte. Nel 44? Eia, e dal 40 in poi fai, là, è tutto pieno di propagazione in banda laterale. Manda, andiamo a divertirci. Poi lo va a giocare, sai, 20 anni. Con i francesi, con gli spagnoli, a me piace più in AM, c'è più gusto a essere italiani. Lo so. Ma c'è quella che può andare a creare, se c'entri bene, va bene, ciao Antonio. Ciao già, se vuoi venire a questo centro massaggi cinese che è aperto a Sassari, e Pompon lo stiamo organizzando. Se vieni con noi siamo in 3, numero perfetto. Che massaggi fa? Massaggi non scialzo cazzo. Guarda, io di massaggi ne avrei bisogno perché sono tutta dolori, tanto è. Dalle dita delle mani, alla schiena, al collo, insomma. Sto con un periodo che sono tutta dolori. E allora già vedi, sei proprio a pennello. Sabato e domenica andiamo, tutti e tre, così ti rilassi un pochettino, ti sorgono i muscoli. Ma che non peggiorino la situazione. Ma chi sono i massaggiatori, donne o maschi? Ah no, c'è questo, il centro estetico, così mi ha informato Pomponio, un centro estetico cinese. E cazzo si paga? No, credo che si paghi tanto, non ti preoccupare, loro sono bravi a fare gli sconti. Stai tranquillo, vedrai che sarai soddisfatto e rimborsato. No, non scherzi, io vengo davvero. Allora andiamo, a Pompo, in 3 siamo, aiuto. Cazzo non ci crede. Gianni, prendi il computer, lo accendi e scrivi la ricerca, ragazzi cinesi Sassari. Ti appare la schermata, e ti trovi il scritto che hanno aperto un centro benessere a Sassari. C'è il numero del telefono, ma non ci sono le fotografie naturalmente. Devi solo telefonare per chiedere l'appuntamento, fanno tutto. E tu hai anche 4 mani, quindi figurati tu. 4 mani? Sono 2 portafoglio e 2 a te, cosa ne so io. Ma che non siano maschietti, perché se no non ci vengo. Ti sto dicendo che sono tutte donne. Cazzo, pigliati il computer, cinto. E pigliati il gusto, mica non sto scherzando, perché... che... ogni tanto mi viene il flash di fare le passeggiate nei siti strani, capito? Non siti porno, siti cercare siti strani, e mi passo quello. Cosa devo digitare? Cerco ragazze cinesi Sassari. Ma sono massaggi, diciamo, tranquilli, oppure è quello che vuole sapere. Se sono massaggiatrici che ti fanno passare il dolore, andate. Se li fa passare già, fidati di Antonello. Andate, non è problema. Antone, andiamo lì. Se prendo un poco, guarda, mi faccio massaggiare anche tutta la notte. A chi non ha la sa? Volentieri. Va bene, guarda che ci metto un separé a tutti e tre, va anche, va bene nella stessa stanza. Però almeno con 2 separé, così possiamo tranquillamente agire, ecco. Ma devi mettere i guinzagli al tuo pisello, perché sai che se, quando comincia a sentire i massaggi nella schiena camminava solo quello, eh. Ah, Pinocchio. Dillo me, ebbe Giuseppe, barrato. Ma che leoncino vuol venire? Il barrato, ti vengari, ebbe, pomponia, cazzo. Ma cosa ti fai dove eri? Morto eri. No, no, io sono passato da tuo fratello, ma hai già andato via da pochi minuti. C'era Nico, c'era, con quella ragazza in occhiali. Ho fatto tardi perché stavo facendo delle commissioni, sono andato da Gavino a portargli le rosme tombate, il TB1000, poi ho fatto delle modifiche, gli ho fatto vedere come si fanno le modifiche al 5486, in cui avevo preso, quando sono risalito sono passato da lì, dopodiché ho preso la 5 e sono salito a casa, era già mezzogiorno e mezzo veramente. Sono entrato bruscamente, chi c'era a ruota, dai? Siamo io, Antonio e Pomponio. Yeah, buonasera a tutti quanti, dai. Ma come siete sul canale 9? Perché io li ho trovati qua, non lo so. Mi pare che Antonio fosse qua perché poi doveva andare in banda laterale dove c'erano gli spagnoli, non so che cosa, e se ne è rimasto sul 9, dai. Ah, cappa, oia, lì, mezzo, il barrato di Antonello di Ossi, c'è, via, ciao Leoncino, aspetta, mettiamo un po', ciao, buonasera, no, mi stavo organizzando con Pomponi andare a questo centro benessere cinese, domenica, siamo in tre, io, Gianni e Pomponi, ci vieni anche tu? Domenica, centro benessere cinese. E a Sassari ha aperto un centro benessere cinese, prendono pochissimo e ti fanno i massaggi e giustamente poi ne esci contentissimo. Ma dipende quale massaggio dovete fare, perché c'è alla schiena poi, oppure dalla parte delle... dove c'è il manganello. No, tu pensi sempre al mare, Leoncino. No, ti sono i vapori, ti fanno appannare anche gli occhiali, non ti preoccupare, non pensare sempre al male. Oi, Gianni, cosa ne pensi tu? Io gli ho già dato la risposta, se si tratta di massaggi, ne ho bisogno perché sono tutto dolore. Lo sappiamo noi che massaggi. Bueno, già bastardo il sale. Vedi, no, lasciamo perdere, cambiamo il discorso. No, poi non ti preoccupare, Leonci, guarda, andiamo col grande maestro che sa lui dove portare i suoi allievi. Sei tranquillo, con lui non sbagli mai, vero maestro? Ti porto io a farvi la punta. E una di fatto. A tagliarlo al limite, si è sbeccata. Ui. Allora Giuseppe, tu cosa hai combinato di bello sul giorno? Guarda me, io stamattina ero da Nico, mi sono andato via che non ho quasi nulla, me lo venti, stavo a mettere a posto il magazzino, togliendo un po' di marciume, e mi sono andato via che non stavo detto, 2:20, 2:15, poi stasera accompagnato a mia madre giù a Porotone, a San Gavino, per vedere i tre santi. E dunque, cosa fai? Non l'accompagnavi? Ah, no, no. Poi c'era una giornata, siamo fatti tutto il giorno a baracchino, io, Giulio, poi c'era Gianni, c'era anche altra gente. Tutto il giorno, da stamattina, vedo tutta la stamattina fino alle 8, mi sembra, alle 7:30, alle 8. E poi ci siamo congelati con Antonio, siamo andati a cenare. Tu giuro che cazzo è barattino, siamo stati. C'era un po' di preparazione con la zona della Calabria, abbiamo fatto un paio di collegamenti e basta. Detto collega, se ascolti in Italia, Nord Sardegna, che chiama cambio, io. Stavo per parlare, è propagazione. Sono spagnoli dell'isola delle Canarie. Comunque, Antone, stasera, verso le 6:30, 7, sono sceso giù a presa, lì a coso, in fronte a Mamina, lì al mercantile Bucci, e ne ho fatto la proposta se volevo il baracchino, quello là della macchina, e gli ho detto che lo stavo dando, 80 euro, no, adesso me ne è uscito, no, è caro, quanti io te lo posso pagare, 30 euro, ho detto per 30 euro manco lo tolgo dalla macchina. Tu è macchina, 30 euro, vai. Tu vai su internet e controlli quanto viene un integer 340 e costa 120 euro, dici. Quindi, a me adesso me era il doppio, mi avevo detto. E però lui vende 40 euro che sul garage vive là. Me la voleva dare 30 euro, guarda che io questo baracchino l'ho pagato più di 100 euro, cosa ci ho messo in testa, è nuovo, non ho capito, gli sto dando il baracchino, ho preso il microfono, cazzo, 100 euro, se ne vale pure, non ho capito, no, è troppo, poi non c'è richiesta, non c'è questa, devo fare una cosa, mangiati la roba e vai. Chi è al mercato delle pulci? Sì, al mercato delle pulci, no. Dopo il grigio, mi ha trattato quanto bene, gli ho lasciato lì, mi ha 30 e tindanti, gli ho lasciato senza microfono. Antone? Sì. No, Antone lo odius. L'ho fatto lei quella cosa là? No, ancora no, già. Ce l'ho qua davanti. Da 5 minuti non mi metto l'attacco e la provo. E vabbè, cosa c'è il tempo? Cavagalo. Sì, e comunque è interessante questa proposta dei massaggi. Davvero, una bella domenica, ci alziamo un caffettino e poi andiamo lì a rilassarci. E allora di pranzo rientriamo, va più che bene. Sto toccando a prendere Antonello perché lui è senza macchina. Ci organizziamo. Andiamo tutti insieme con una. Ehi, Antone, quando entro dentro ti chiedo se mi dà la pastiglia rosa. Lo sai cos'è la pastiglia rosa? È il Viagra cinese in pratica, dico, mi dia la pastiglia che poi dal sistema io dico. Perché Antone, il Viagra c'è bisogno? No, ne ho bisogno, ma capito, quando usi quello, siccome è diverso da quello che vendo l'italiano, no? Dice che rimane tutto il giorno alza bandiera, quindi quando bisogna che ti metti i pantaloni con la cerniera alta. Sei formato. A quanto pare sì. E mi sa che conviene andare che ci divertiamo. Vediamo il maestro in azione. Oh, non era al corrente. Nemmeno sapevo che esisteva questa cosa qua. Ma stanno appena due negozi di cinesi a Ussi, uno di abbigliamento e uno di casalinghi. Tra un po' non parte, tra un po' non manca più niente. Non c'è più neanche più bisogno di andare a Sassari, guarda. Ma quello dei cosi che sta dicendo l'Antonio non ha aperto quello di Viagra. Guarda che se tu se conosci bene qualche cinese trovo a me, perché io conoscevo, lo conosco bene, ne conosco più di 3 o 4 di quei cinesi, e hanno delle pastiglie, sono rosa di colore solo, e in pratica è un Viagra che fanno in Cina, ma siccome l'ha provato un amico mio, no? E gli ho detto, beh, com'è quello, che differenza c'è tra quello blu, la pastiglia blu e la pastiglia rosa? Di cazzo, dice Antonio, dice, sono rimasto tutto il giorno, dice, non voleva scendere per nulla, ma questo lo mettevi col ghiaccio. Dai. Deve essere una cosa, questa cosa c'è in mezzo, non lo so. Fatto sta che si chiama insieme metà bloccante, non mi ricordo adesso, di dati quasi sanguigni, mi capito questa cosa. Sì, lo so l'effetto che ha il Viagra, Esatto, va dei sanguigni, ma fa pompare di più il sangue e fa lavorare di più il cuore, quindi ho detto l'ho fatto per quello, perché quando il cuore lavora al doppio di quello che deve lavorare, c'è la probabilità che ti possa venire un infarto. Più che infatti un ictus, perché ti sale anche la pressione, bisogna stare molto attenti anche a quello, capito? Perché per pompare più sangue c'è anche la pressione del sangue, già, capito? Si solleva per forza, quindi si ha rischio lo stesso. Va bene, prendiamo un sorso. Io già non ne ho bisogno di quella roba, certo, io, grazie a Dio, il mio dovere lo faccio. E non si dice mai quando ne hai bisogno, Giuseppe, magari ne hai bisogno stai facendo così. E tu lo sai già, capisci a me tu al volo. Ah, lo sai già, facci capire anche a noi. E sono cose che non si possono dire con frequenza. Comunque, non bisogna mai fidarsi di quello che abbiamo noi, perché basta un po' di euforia e a posto di sollevarsi rimane tutto il giorno buscio, non hai capito che succederà anche così, manco te l'aspetti. Se tu dici tu lo sai, chi si pensa lì? Io so di più, lui sa di me, vero Giuseppe? Beh, non mi pare ridere già, che non ne ho voglia, qua. Lasciamo perdere. Ciupi ciupi. Ciupi ciupi ciupi ciupi. Pastorello. Mi stavo cercando di capire a Maria De Filippi, perché Gianni per me è Maria De Filippi. Come quando siamo saliti su a Ussi, che c'era la Brutas, cazzo, che come l'ha visto, cazzo, è già cominciato a pompare. Secondo me mi si è bosciato. No, se mi si è un po' grazie il confetto, si è addrezzato. Comunque giustamente, chiedo un uomo vicino per farla riprendere di ucciso. Antonello, Baracura, dimmi. Dimmi una cosa, ma non è più vista quella persona là che avevo incontrato a quella festa? No, la verità no, non l'ho più vista. Ah, qualcuno se l'ha caricata. Sicuramente. Oi. Comunque, già, bisogna farsi qualche scapettina adesso, nuovamente, i vecchi ricordi, e salire nuovamente a Ussi e farsi un po' di giri di locandine. C'è quel coraggioso che se l'ha caricata, poi? Ma sinceramente non lo so, ma non è la più pallida idea, perché la maggior parte, guarda, come sempre è capitata a Ussi, se ne portano via quelli di Ploaghe. Quelli di Ploaghe. Io ci frequentavo prima alla Dama di Curia, Ploaghe. Sono un ragazzotto in moto, dai, si era formato una bella grefona. E dunque la sera andavamo lì, tutti in moto, chi così, chi col ciao, col bravo. Bei tempi. E andavamo sempre lì a Ploaghe. Una bella passata di birra e poi si rientrava a casa tutti insieme, in moto sempre. E bei tempi qua. Guarda, io non ci credo. Ci voglio vedere venerdì che c'ho l'incontro con l'assistenza sociale, vedere cosa mi dice. Secondo cosa mi dice, dico ascolti, faccia una cosa, mi dia tutta quanta dei miei documenti che gli ho dato, mi cambio nuovamente assistenza sociale, me ne vado a viaggiare e mi cambio assistenza sociale, perché mi sono rotto le scatole. Basta, adesso, che bisogna fare così, l'altro giorno ho incontrato a coso, come si chiama, fanculo, che fa il rematore, che lavora qua all'ufficio del tesoro, e mi ha detto, Antonio, dice, se vuoi entrare devi fare una cosa, dice, prendi una persona qualsiasi, un altro vicino urbano, prendilo qui, ti mettono in galera, fai 6 mesi, quando ti fai un bel tatuaggio, poi vai al comune e fa la domanda lì alla rettifica urbana, ti prendono subito. Se uno deve arrivare a questo, non ho capito, deve ammazzare un oncologo, un poliziotto, un carabiniere, per farsi cazzo pagare il posto. Ammazzare, dai! Allucinante. Ammazzare. Ma lascia perdere che non è vero queste cazzate, dai, ne conosco gente argattolana che non vi prende nessuno a lavorare solo perché hanno avuto precedenti penali, mica non funziona così. Anche lì vogliono anche calci in culo, No, dagli assistenti sociali, Antonè, fanno entrare questi qua per recuperarli. Non lo metto in dubbio, ma non credo che tutte le persone che lavorano, diciamo, per gli enti di Sassari siano tutti uno peggio dell'altro. Ma dai, no. Sto parlando di questi che prendono per 2 mesi, così 3 mesi. E allora per 3 mesi è meglio stare tranquillo e cercare di elemosinare il lavoro, perché se funziona così almeno sei tranquillo e pulito, poi se fortunatamente la ruota gira, il lavoro riprende e ti do tranquillamente in qualsiasi parte senza problemi. Buonasera, Massimiliano Bulldozer. Ciao Massimiliano, presentito. Compagnia di Antonello Di Rossi, Antonello Pomponio, Leoncino, e il sottoscritto Gianni Doppiolun, avanti. Positivo, allora saluto tutta la ruota, così non mi dimentico nessuno. Avanti Leoncino, buonasera. Poi Massimiliano Bulldozer, buonasera. Mi sentito dopo diciamo, che non si sentiva da parecchio. Avanti, infatti non ti ho più sentito manco io. Sarà il sacco dal lavoro, adesso non è gambe. Ciao Massimiliano, saluto di ben entrato. Avanti Antonello Di Ussi. Aspetta un attimo, mi assetto 5 minuti e arrivo. Sì, tu stai andando. Controlla. Fare il caffè al fratello. No, sto accompagnando mia figlia a letto. A pigliare la pillola per il Viagra. E che si dice? Era un po' di giorni che era muta la frequenza, un paio di giorni che accendevo non sentivo nessuno, tranne vabbè la sera quando vado a lavoro e quando rientro, poi dopo le 8, tutto accendo. Battaglia, tutto per sovramodulazione, un casino. mi piace anche a me entrare, ogni tanto entro anch'io, dico la verità, però lì è roba di bottenza, o se è bottente o se poi c'è il radio criminale, non fa mente più nessuno. Non sarà questa velocità, dipende dove gira la propaganda, ma io già mi faccio ascoltare. Mi ascoltano, mi ascoltano, senza problemi. Non è che ogni tanto entra qualcuno di noi e dice qualche coglionata che fa rimanere male la gente, comunque va bene lo stesso. Per questo è quello che già lo sai, Massimiliano, dobbiamo pigliarla come esce. Noi siamo, ci sono quelli che sono tranquilli e quelli che sono diventano pesanti come il marmo da sopportare. Io Antonio, però io non riesco a capire questo. Allora, se a te non ti piace stare a ascoltare la propagazione, la gente che non è questo, ma perché ci entri? Io dico, perché ci entri? Solo questo voglio capire. Se a lui non le piacciono le Ferrari, si deve rimanere negli altri canali, senza andare a criticare nessun tipo di moderazione. Perché se a lui le dicono quello che lui ha detto a questa persona, non ci rimane male, capito? Tutto lì, a me non è che mi interessa, io l'ho sentito e sono stato zitto, ma sono intervenuto, non mi interessa, ho capito, però non va bene. Lo sai che purtroppo, cioè, la gente gelosa di come esce uno dal baracchino, capito? C'è quello che non gli piace l'eco, c'è quello che non gli piace il beat e c'è quello che non gli piace la modulazione, per dire, pompata e cose così, e la gente critica sempre, purtroppo. Non è che, lui, che quella persona che critica no, si ascolta lui, no? Oh, lui sembra che sta tutto bene, cioè lui sta bene, magari lui esce peggio di come sta uscendo tu, per dire. Però purtroppo dobbiamo accontentarci, se qualcuno ha sopportato io, mi diceva Antonio, questo pipì mi ha dato sulle balle, o se vuoi parlare come staccare il pipì, però gli dicevo io, ascolta una cosa, se vuoi, se il mio prima lo vede per chi che l'ho pagato io come cosa, se non ti piace, ti ho detto, non ascoltarmi, per niente cambi canale e te ne vai a fanculo, li facevo così, una o due volte, così lo facevo anche con l'Ecco, quando usavo l'Ecco, un periodo, gli davo fastidio perché usavo l'Ecco, dicevo, basta cambiare canale, a me non è che mi frega più tanto, visto che poi si è abituato e poi si è comprato l'Ecco anche lui e lo GBP anche lui. Il discorso è quello lì, e purtroppo la gente è gelosa, non ci puoi fare nulla, capito? Avanti Gianni, sono vicino a casa tua, non so se te ne sei accorto. Diciamo che sono accorto, non ho detto nulla per privacy. Era per privacy. Vabbè, perché devo dire, capito se andiamo. Stanno a portarle una scheda di una macchina là. Oh Antonio, ti volevo dire, quella cosa gli era avvicinata a Gavino. Dunque, si è avvicinato quella cosa a Gavino? Sì, io tu Giallo, io l'ascolto basso adesso. Ha detto, se gli è avvicinato quella cosa là a Gavino. Adesso non mi ricordo, io da Gavino sono passato l'altro giorno, che ho sceso ultimi mille per sistemarsi degli apparecchi, gli ho fatto vedere come si facevano delle modifiche. Poi non mi ricordo di... Ah, gli ho fatto vedere la stella che di un televisore c'avevo io, che me ne devo mettere a posto, poi non mi ricordo se devo uscire dalla roba, adesso la verità, perché c'avevo la testa con tutta messa male, perché mi sono svegliato una settimana più un bel po' di cose, di antibiotici, quindi se non è che sono ancora in fase, capito? Sta parlando del finale. Al finale, sì, l'ho visto stamattina a Gavino, qua a casa, si era ritirato. Va bene, vai, signori, che vi saluto, sono arrivato, cerco un parcheggio qua. Grazie della chiacchierata, ci sentiamo più là. Non so quando, ma ci sentiamo, dai. Ciao Gianni, Lucino, Antonello Silandia, Antonello Pompuglio, dai. Ciao. Ciao. avanti Leoncino. Ciao Massimiliano, fai una cosa, vabbè, avanti Antonello, Maracuda. Ehi cap, che volevo dire Giuseppe, domani ricordamelo che, vabbè, domani mattina mi viene male, quindi quando io, quando mi accompagni qua a casa, sali un attimino con me, ti collego il microfono amplificato in saletta, così te lo potete avere, proprio riuscito a usare in saletta, vedere come esci, almeno ti sento più forte di vario. Ma di una cosa, ma porta loro, porto anche il baracchino, quello normale, quello di gara. E il prendo per sicurezza, perché non mi ricordo se i collegamenti sono uguali a questo, la verità. Io stasera ho collegato al Texas col microfono e esce un bel forte di radio, adesso te lo aggancio, due minuti, sta con questa, sta col Texas. Sì, capa, vabbè, dai, ok, non c'è problema, domani quando ci vediamo porto anche bella questo galaccio, dai. Avanti già. Perché adesso basta si riparare, esce una bomba. E lo so, ma voglio mettere il microfono, quello con l'amplificato, no, amplificato, l'altro, quello l'MP5, dai, o l'altro, quello che mi deve dare Antonello. Savello. Sì, per vedere come esce, capito, da tavolo, capito. Ciao, ciao. E comunque, stasera siamo passati dove stavi lavorando tu, lì alla Sisa, la Turis di Mar, rientrando dalla chiesa, eravamo assieme alla vecchia, e c'erano, stavo viaggiando con questa cintura, c'erano i carabinieri, mi sono appoggiato lì all'angolo, e dice, ma perché prendo lì? E ho detto, perché ci sono i carabinieri. Non mi hai visto dentro, perché oggi stavo lavando il furgone, ero fuori, probabilmente se che la si venga. Ma c'erano le 4:30, una roba così, alle 5 ci siamo andati via da lì, hai capito? Lo so. Mi senti adesso? Provato, E guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, come sto uscendo? Vabbè, va bene. No, già, come lo senti? E c'è propagazione che si confonde, prova Antonetto. Come sto uscendo questo microfono? Salerno attaccato alla Texas 40 canali MFM. Attualmente. È un bel forte, ma la radio non è tanto chiara, nel senso che si sentono rumori sottofondo. E lei concia. No, troppo. Adesso senza ecco, guarda se è migliorato qualcosa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Così già va bene. Ora è amplificata parecchio la modulazione, sì. Troppo. Esagerato, sono distanti, adesso guarda un po'. Sempre alte, abbassa appena appena. Adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adesso comincia ad andare bene. Stava fischiando. Ciuccucciù. Adesso così tanto poco questo microfono. E beh, ma domani lavori già. Sì, ho grido io. Ah, ma è uno giorno? Sì, perché? No, era così. Ho pensato che facevi gli orari. Che orare, dai, la mattina e poi la sera non ci andavi. No, è finita quella pacca di già da mesi. No, pensavo che tranne che il lunedì, no. Beh, le ore sono già tutte recuperate e sono rientrate anche la sera. Chi è questo qua? Chi è questo con la voce, con la musica? Wow. ringrazio. Ha rientrato Antonello Paracura. Attenzione alla frequenza, l'isola della Sardegna, città di Sassari, si sintonizza in ascolto, cambio. Hola, hola, hola, hola Gianni, hola. Attento collega, si ascolti l'isola della Sardegna, la città di Sassari, l'operatore doppio RU che chiama, cambio. Lucio al 100% mio hermano, l'operatore Gianni Doppio Ru che ti super cordializza, avanti collega. Hola Gianni, hola, hola, hola Coca-Cola, hola, hola. Attaccamento 165 Nord Sardegna chiama. Nanni. Magari ragazzi, sei il lupo mannaro. Attenzione Gianni Doppio Ru, Gianni Doppio Ru. Attento Lupo Mannaro, se ascolti la Sardegna, non mio. Antone. Io so, dimmi. Che dite al Lupo Mannaro? E ora ci va meglio. Sente. Gianni. Ehi. Tu sì. Ehi, chi è? Oh. Come casino state facendo? Chi c'è? Gianni. Ehi, ci sono, ci sono, ci sono. Chi è? Dammi la frequenza che sei fuori frequenza, dimmi. 9, 9, canale 9, 9, 27, 7, 0, 6, 4, 4. Manda il cazzo. E sei 5, non sei 4. Ehi. Comunque, Antonè, bisogna nuovamente controllare quella questione delle... di quelle luci gialle, mi ho capito. No, perché vado... Ho detto che era fuori frequenza, chi era? Non ho capito manco io, sinceramente, sinceramente. Io sono fuori frequenza, io sono sì... Sì, 4.9, sì, 5, sta andando e muovendosi. Antonio sono, Antonio, Antonio, Antonio. Poi, Antonio, Antonio, Grodino? Sì, ma sta a un Grodino. No, mi sembra che già eri abbastanza fuori frequenza, nel senso che non eri, boh, non so se eri centrato, però adesso ti sento, non c'è problema. Ciao Giuseppe, ciao Gianni, compagnia cantante. Beh, tu, cosa mi racconti di bello? Non ti sei fatto più sentire, da quando hai fatto i soldi non ti puoi più essere cercato. Ma chi è che si sta mettendo portante? Chi è che sta facendo questo casino? È propagazione. Ma lo sai cos'è? Mi sta soffrendo un po' di... di cambiamento di temperatura, va 495, facendo sto facendo qualcosa con l'S980. S980, ma quindi è un decametrico? Roba. Quintimetro. Certo che c'è. Giuseppe, altro che fare i soldi, non mi sono fatto sentire perché non ne avevo i soldi. Se avessi avuto soldi mi sarei fatto sentire, già lo sai. Lo so Antonio, ma a me no, a dire a me, esce certo che saluto, faccio una pace a vedere come sta Giuseppe, Gianni, non ti sei fatto più sentire, va bene che io il numero tuo l'ho perso, no, non me lo ritrovo più, capito Antonio, no, poi ho chiesto a Gianni, ho detto ma Antonio Grosso l'hai più sentito, no neanche io l'ho più sentito, dallo poco che nulla, e ci siamo persi in vita e anche con Gianni, Ciao Giuseppe, non avevo ancora piazzato l'antenna, adesso che l'ho piazzata però già ci sentiremo più spesso, poi ti devo chiedere anche una cosa se vuoi partecipare. Abbassiamo tutto. Poi ti chiederò una cosa se vuoi partecipare, ma te lo dirò a quattro occhi quando non ci sentono persone pettegole. vabbè, ok, dai, non c'è problema, non c'è, lo sai che problemi no, non me ne metto, siamo sempre andati d'accordo e mai ne avremo mai avuto, capito? Non abbiamo mai avuto problemi noi. Assolutamente, quando li abbiamo avuti li abbiamo risolti da uomini. Non c'è problema, riprendi Gianni Doppio Rum, riprendi. Ma io che questa volta a farla non la salvo, sono per la pace. Tu, con cosa stai uscendo? Ci siamo afferrati, abbiamo risolto da uomini, come vedi, poi siamo in pace, tranquilli, è così che si risolvono i problemi, se no rimangono latenti e alla fine poi non li risolvi mai. Sto uscendo con un baracchino, perché come mi stai sentendo? Di fondo scala, sì, so. Come fondo scala? Ci avrò... Sì. Potevo prenderlo? Sì, stanno sentendo altre 250 persone. Saluta Gianni Doppio Rum. Ciao Gianni Doppio Rum. Ciao Chia. Oh, salutone, dai. Oh, Anto, mi stavi dicendo che microfono sto usando? Perché la radio mi piace, però non avevo riconosciuta la tua voce. Questo qua è come microfono. Questo qua è un coso, un Intec M120 Plus, con un microfono non amplificato, normalissimo, tranquillo. Però adesso c'hai una specie di blim quando parli. Non parlo. Tu vuoi vedere? Blim. Non mi sembra. 1, 2, 3, prova. Guarda un po' adesso. Aspetta, te lo faccio vedere. Altrove tu lo senti. Lascialo stare dove è. Si dica un parlo quando parla lui. Prima lo sentivo, adesso no. Che forse come ha passato si sente molto di meno. Grazie Giuseppe, tu sì che ne sei due strisce. Oh, io Gianni Doppio Ru. Ma perché? Come tu uscendo di radio già? No, la radio è bella, però c'è questo rumore metallico, ecco. Lo sento in sottofondo perché sono in cuffia forse e riesco a percepire meglio il rumore, però lo sento. Anche adesso, guarda un po'. Casco, prova a abbassare la portata senza parlare, aiutare. Che sente la ventola, Ma è così rumorosa. E ce l'ho vicino, aspetta un attimo, ho sposto il microfono. Guarda così. Hola. Te la fa per il blim, come se si suonasse qualcosa. Sì, ce l'ha in testa il blim, secondo me sono in quelle cuffie che sono cinesi e ti fanno blim. Tu le avresti volute queste cuffie che ho io? Sì, già lo credo. Sono le Sennheiser, quelle che usano i DG, per cui non puoi dire niente. Ma quello blu sapevamo, chi è che se la sta fischiando? Ah, è una cosa, tu, ma chi è il giorno della cavalcata? Giuseppe, c'ero, ti stavo aspettando, pensavo passassi anche Gianni, ma evidentemente vi vergognate di avere un amico bancarellaio. No, io devo dire la verità, io stavo lavorando al bar che c'è lì in Piazza d'Italia, Bar Marini, dunque, io ho fatto, proprio il giorno me ne sono andato via, quasi le 4, da lì. No, io odio andare in mezzo alla gente, quando ci sono questi affollamenti non mi va proprio, te l'ho spiegato. Infatti a mia moglie gli ho detto vai se vuoi andare, non te la prendere, però io non me la sento. Infatti è andato con Rita, con altri amici e amiche, io non ci sono andato perché sono andato la mattina, poi ci siamo trovati con mia moglie perché lavorava sera alle 10, ci siamo trovati, abbiamo guardato un po' la cavalcata e poi niente, la sera io non sono andato. E non mi sembra che non ti piace stare in mezzo alla gente, visto che avanti ti ho trovato lì alle dimostrazioni di Ricchi Primi e Cotillon. L'ho fatto per farla contenta, perché talvolta da San Gallino e la sono sceso, dico la verità. Ma non mi piace, non ci vado, ma non lo faccio molto volentieri. Infatti ho guardato la tua postazione di San Gallino e non c'eri. Ho guardato la postazione a fianco a quello che fa panini e ho visto lui, ma non c'eri tu. Affermativo, no, non l'abbiamo presa perché è poca voglia. Mi ha crepato i due giorni alla cavalcata. Ascolta, cosa ti volevo dire? Ma non si è sentito nessun altro? Claudio non si è sentito? No. Era, probabilmente erano nella frequenza monitor. Non ce lo accedono, sono neanche lì. Dai, un attimino, puoi segreto per me, rientro subito, fra due secondi. Cavolo. Avanti, chi è rimasto senza parlare? C'è cosa? C'è Pomponio? Vediamo un po' se risponde. Antonello. Sta ciusciando. Antonello Barracuda, ci sì. Ma quello ha preso la Viagra e sta facendo ciucchi ciucchi ciucchi. Attenzione alla frequenza. La città di Sassari, nord Sardegna, divisione 165, fa chiamata, si sintonizza in ascolto. Ricordo. Ci vediamo verticale pure qualche giorno, dai, a trovarti, dai. Sì, adesso andiamo a fare questi massaggi. E adesso vediamo, dai. Ok, dai, saluto tutti, dai, e faccio, chiudo, battenti, dai, ok, sarebbe già ora, vabbè, sarebbe ora, dai. Vabbè, dai, saluto tutti quanti, dai, ciao, buonanotte a tutti. Ciao, buonanotte, ci sentiamo, dai, non vi fate vedere. Magari se sabato siamo liberi, cioè, ci facciamo l'uscita di nostro. E adesso vedo un po' là, insomma, se non c'è il bambino già metto d'accordo. Anche se dopo il bambino, dopo le 8:30, le 9, facciamo un giro, dai. E magari c'è qualche festa così, devo vedere. Ok, chi è rimasto? Avanti. Pomponio, chi c'è? Se entra Pomponio di salutano dalla parte mia, dai. Se non te lo sono messo a cane nel buio, me vado a fare ascolto. Claude, ci sì. Attenzione alla frequenza, l'isola della Sardegna fa chiamate, si sintonizza in ascolto, brinco, arco.